sono così orrendi che sarebbe bene spengere la televisione. La RAI è veramente scostumata. Questo è il suo giudizio sui programmi. Resta il fatto però che i punti del piano di rinascita sono stati comunque condivisi e abbracciati dai politici. Ma vede, tutte le cose buone non si deve mai guardare la loro origine. L'essenziale è che siano frutti che possano fruttificare, possano dare i loro frutti. Qui non ci sono nessun diritto di autore. E lo schema R lo consegnai io direttamente al presidente Leone. Era 83 articoli. Me lo chiese lui durante una normale udienza. Chiedeva di poter conoscere quali erano i motivi di questo malcontento nel popolo. C'erano ministri, sottosegretari, c'erano tutti i vertici delle forze armate, della magistratura, perché c'era anche il vicepresidente del Consiglio Superiore della Magistratura. Cosa vuole? C'erano capi di Stato, c'era il ministro Sarti, che era democristiano e ministro di Grazia e Giustizia. Tutti i capi dei servizi segreti, cominciando da Micheli, da Santovito, addirittura il questore Fanelli, che era su nella segreteria riservata, nella loggia P2, aveva il compito di essere l'amministratore quando riscuoteva nelle quote. Ma lei la P2 oggi la considera il suo capolavoro o la sua maledizione? A parte tutto è irripetibile, non si può mai fare. Era uno strumento che si estraniava da tutti i titoli politici, perché non aveva dottrine, era come una scuola di etica, di costume, di morale. La massoneria non è legata a nessun partito, vive nello Stato e è al servizio dello Stato e obbedisce alle leggi di quello Stato in cui si trova. Con Licio Gelli ci ritroviamo tra poco.